Moro Pindarico numero 4, puntata speciale tutta dedicata alla melodia. Armati di picconi, corde e torce, ci accingiamo ad esplorare grotte impervie alla ricerca delle pietre più preziose. Ed eccone subito una. Si dia inizio alle danze allora. Questo è Simon Boswell, Second Best. Una melodia scandisce il ritmo delle stagioni e il ciclo della vita, la giovinezza, la vecchiaia, la morte, le cascate che vanno ad alimentare il mare, gli astri immobili nel cielo, le piccole faccende di tutti i giorni, gli affetti, gli amori, i rancori, il dolore, perché tutto è ciò che è sempre stato. A voi Angelo Badalamenti, Twin Peaks, Them. Thank you. Daniel Johnston è il cantautore che può ben aspirare al titolo di più grande melodista della storia del rock. Sin da giovane è oppresso dalla schizofrenia e da una sindrome maniaco-depressiva, malattie che gli hanno precluso una carriera artistica propriamente detta, ma non gli hanno impedito di scrivere canzoni perfette, solo apparentemente semplici ed innocue, ma in realtà costruite con la perizia di un artigiano. Del tutto estraneo alle logiche del mercato discografico, Daniel Johnston è uno splendido outsider, l'ultimo di una tradizione di folli geni che annovera Syd Barrett e Wildman Fisher. Del tutto privo di nozioni di armonia e di una tecnica musicale, lui ha fatto dell'approccio lo-fi un'arte. Le sue canzoni sono popolate da una figura femminile, Laura, amore adolescenziale mai corrisposto e mai dimenticato. Ma sono anche canzoni pervase da una forte inquietudine religiosa, da una tensione metafisica, meditazioni sull'esistenza che svelano una rassegnazione e una consapevolezza antiche. Ecco a voi un uomo che è capace di cambiarvi la vita, Daniel Johnston in tutta la sua purezza. In sequenza vi propongo Held the Hand, Dream Scream, You Put My Love Out the Door, Fish, Now, Love Will See You Through, ma subito uno dei suoi capolavori dal testo indimenticabile. Questa è Life in Vain, Daniel Johnston. Don't wanna be free of hope, and I'm at the end of my rope. So tough just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain, I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try so hard to get by. And where am I going to? I don't know where is up or down, and there ain't any love left around. Everybody wearing a frown, waiting for Santa to come to town. You're giving it up so plain, you're living your lives in vain. And where are you going to? You gotta really try so hard to get by. And where are you going to? Flip on your TV and try to make sense out of that. If we were all in the movies, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain, we're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try so hard to get by. And where are we going to? Goodbye. Thank you. Put my love out the door. Put my love out the door. I rode out to your house and brought you a valentine. And what did you do? Put my love out the door. Put my love out the door. Out in the cold. Now every February, we'll be right back. and tomorrow, no more sorrow. You can call her if you want to. There's a new way. Why won't you try it? Heaven sent in. You'll believe it now. Love can save you now. Love can save you now. Love can save you now. Love can save you now. Melodie stralunate? Melodie sgangherate? Bene, avrete pane per i vostri denti. Ecco a voi Goblin con Snip Snap, Stray Cats con Everybody Needs Rock and Roll, ma subito la funambolesca Root Beer Egg di Billy Joel, dedicata ad Antonio. Thank you. Cosa succede quando la melodia si sposa al furore dell'hardcore? Cat Bieland concentra in un riff strozzato di due note angosce e traumi di bambina. Ecco a voi Dust Cake Boy delle Babes in Toyland, ma subito uno dei riff immortali della storia del rock. Un riff che ha la potenza di un inno generazionale. Si dia fuoco alle polveri allora. A voi le L7 e questa è Pretend We're Dead. We'll be right back. A volte melodie dolcissime coronano un addio. Cremation è l'ultimo saluto ad un amico morto di cancro e un interrogativo rivolto alla grande consolatrice, che qui è ritratta come il Coal Black Sea, il mare nero carbone che pazientemente attende noi tutti. Questo è Lou Reed, a voi Cremation. Well, the cold black sea waits for me, me, me. The cold black sea waits forever. The waves hit the shore crying more, more, more. But the cold black sea waits forever. Tornadoes come, up the coast they run. Hurricanes rip the sky forever. Though the weather's changed, the sea remains the same. The cold black sea waits forever. There are ashes spilt through collective guilt. People rest at sea forever. Since they burnt you up, collect you in a cup. For you, the cold black sea has no terror. Will your ashes float like some foreign boat, or will they sink absorbed forever? Will the Atlantic coast have its final boast? Nothing else contained you ever. Now the cold black sea waits for me, me, me. The cold black sea waits forever. When I leave this joint at some further point, the same cold black sea will it be waiting. Altri melodisti sopraffini sono gli XTC. Peccato solo che abbiano messo il loro talento al servizio del pop più triviale. Ma in fin dei conti è cioccolato a cui è proprio impossibile resistere. Sentite qua, XTC, That's Really Super, Supergirl. I can hold you down. Now that I found out just what you're doing with your secret identity. A volte tenui melodie emergono dal caos. Dal magma sonoro informe si elevano bisbigli d'angeli. Questi angeli si chiamano Belinda Butcher e Kevin Shields. Ecco a voi My Bloody Valentine, Sue is Fine e Blown a Wish, dedicati a Giordana. The Second Best di Simon Boswell, A Blown Wish di My Bloody Valentine, Volo Pindarico numero 4.